ogni pianto, ogni mio piccolo errore. Te chiamavi tutti santi, eravamo felici, non ci importava niente di quello che pensava e mi sperava la gente. Di avventure insieme ne abbiamo passate tante, ti cadevo i piedi come l'acqua per le piante. Ti ricordi quando ti cercavo, quando noi stavamo mano nella mano? Ti ricordi ancora quando mi piacevi, quando io scherzavo e poi tu ridevi? L'amore a quei tempi era così bello, così vero e dolce, anche un po' litigarello. Mi ricordo ancora quando io mi imbarazzavo, dicevano il tuo nome con lo sguardo ti cercavo. Diventavo tutto rosso come un pomodoro, da teneri mi piace, sei passati a ti adoro. Ora sembra strano ricordare tutto questo, ci importava di noi e non di tutto il resto. Ti sognavo di giorno, ti sognavo di sera, ti sognavo all'alba e con la luna piena. Sembravamo gli estremi di un elastico tirato, allontanati spesso, ma io sempre ti cercavo. I suoi occhi verdi, azzurri, neri o blu, io dicevo sempre nel mio cuore ci sei solo tu. Ora siamo grandi, tutto è cambiato, non ci amiamo più, tutto questo è passato. Ora siamo maturati e l'amore è cambiato, non si frega più chiedendo aiuto al fatto. L'amore adesso è sedersi vicini e stare attaccati dandosi i bacini, mostrare a tutti di volersi bene, tutti devono sapere che siamo ancora insieme. No, così io non ci sto, l'amore è diverso, l'amore è andato perso. Ti ricordi ancora quando ti cercavo, quando noi stavamo mano nella mano? Ti ricordi ancora quando mi piacevi, quando io scherzavo e poi tu ridevi? Ti ricordi ancora quando ti cercavo, quando noi stavamo mano nella mano? Ti ricordi ancora quando mi piacevi, quando io scherzavo e poi tu ridevi? Eccoci arrivati ad una triste conclusione, quando parlo di questo mi chiamano coglione. Quello che penso è che l'amore è molto strano, prima ti amo e poi ti allontano. Da piccolini era così spontaneo, un bacio oggi è solo un momentaneo. Tanti sogni che avevamo costruito, in un istante vedo tutto demolito. Ti ricordi ancora quando ti cercavo, quando noi stavamo mano nella mano? Ti ricordi ancora quando mi piacevi, quando io scherzavo e poi tu ridevi? Ricordi ancora quando ti cercavo, quando noi stavamo mano nella mano? Ti ricordi ancora quando mi piacevi, quando io scherzavo e poi tu ridevi? Quando ti cercavo, quando noi stavamo mano nella mano.